Caratteristiche specifiche dell'ordine morale islamico. Le fonti normative dell'Islam indicano la grazia divina come l'obiettivo della vita umana e per questo propongono all'uomo il più elevato dei modelli etici. Grazie alle sue fonti, lo schema etico da cui scaturisce lo stile di vita islamico ha carattere di permanenza e di stabilità. Dalla consapevolezza della propria condizione, l'uomo riceve l'impulso irresistibile all'amore e al timore di Allah, il Dio, e da questa accoppiata vincente scaturisce la forza interiore che lo spinge all'osservanza della legge morale. Di ciascuna virtù, il codice morale islamico definisce lo spazio di attuazione fino a coprire ogni aspetto della vita dell'individuo e della collettività, sicché nessuno degli ambiti dell'esistenza umana è sottratto al governo dei principi morali dell'Islam, alla luce dei quali si realizza un sistema di vita a misura d'uomo. Questo perché la coscienza della propria condizione umana e la certezza del rendiconto finale sprigionano una forza irresistibile che costringe non solo a praticare la virtù, ma a rafforzarla e a sradicare il vizio, a promuovere il bene e a impedire il male.